Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «I figli di Israele si accamperanno ognuno presso la propria insegna, vicino all'emblema della loro casa paterna. Si accamperanno intorno, rivolti verso la tenda del convegno. Si accamperà di fronte, a oriente, l'insegna del campo di Giuda, secondo le loro schiere. Il capo dei figli di Giuda è Nacason, figlio di Amminadab. La sua schiera e i suoi recensiti, 74.600. Si accamperanno presso di lui la tribù di Issacar. Il capo dei figli di Issacar è Natanael, figlio di Suar. La sua schiera e i suoi recensiti, 54.400. La tribù di Zabulon, il capo dei figli di Zabulon è Eliab, figlio di Chelon. La sua schiera e i suoi recensiti, 57.400. Tutti i recensiti del campo di Giuda, 186.400, secondo le loro schiere. Toglieranno le tende per primi. A sud ci sarà l'insegna del campo di Ruben, secondo le sue schiere, con il capo dei figli di Ruben, Elisur, figlio di Sedeur. La sua schiera e i suoi recensiti, 46.500. Si accamperanno presso di lui la tribù di Simeone. Il capo dei figli di Simeone è Selumiel, figlio di Surisaddai. La sua schiera e i suoi recensiti, 59.300. La tribù di Gad. Il capo dei figli di Gad è Eliasaf, figlio di Deuel. La sua schiera e i suoi recensiti, 45.650. Tutti i recensiti del campo di Ruben, 151.450, secondo le loro schiere. Toglieranno le tende come secondi. Poi partirà la tenda del convegno. Il campo dei Leviti sarà in mezzo agli accampamenti. Come erano accampati, così partiranno, ognuno alla propria mano, secondo le loro insegne. A ovest ci sarà l'insegna del campo di Efraim, secondo le loro schiere, con il capo dei figli di Efraim, Elisama, figlio di Ammiud. La sua schiera e i suoi recensiti, 40.500. Vicino a lui la tribù di Manasse. Il capo dei figli di Manasse è Gamliel, figlio di Pedasur. La sua schiera e i suoi recensiti, 32.200. La tribù di Beniamino. Il capo dei figli di Beniamino è Abidan, figlio di Gideoni. La sua schiera e i suoi recensiti, 35.400. Tutti i recensiti del campo di Efraim, 108.100, secondo le loro schiere. Toglieranno le tende al terzo posto. A nord ci sarà l'insegna del campo di Dan, secondo le loro schiere, con il capo dei figli di Dan, Achiezer, figlio di Ammisaddai. La sua schiera e i suoi recensiti, 62.700. Vicino a lui si accamperà la tribù di Aser. Il capo dei figli di Aser è Pagiel, figlio di Akzar. La sua schiera e i suoi recensiti, 41.500. La tribù di Neftali. Il capo dei figli di Neftali è Achira, figlio di Enan. La sua schiera e i suoi recensiti, 53.400. Tutti i recensiti del campo di Dan, 157.600. Toglieranno le tende per ultimi, secondo le loro insegne. Questi sono i recensiti dei figli di Israele, secondo le loro case paterne. Tutti i recensiti degli accampamenti, secondo le loro schiere, 603.550. I Leviti, però, non furono recensiti tra i figli di Israele, come il Signore aveva ordinato a Mosè. I figli di Israele fecero secondo tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. In questo modo si accamparono secondo le loro insegne e così tolsero le tende, ognuno secondo le proprie famiglie, con le case paterne.